I need to be with you. Every moment of my life, from the morning till the night. So I'm begging you to stay, 'cause I need to be with you. stop this useless relation. It's no good for both of us. I guess if you keep loving me, do you love to see me cry? I can't afford this bad situation. Your behavior has to stop. Everything is in my fears. see your eyes. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa quando è che è meglio, sai per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire mi amo centaglia. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. We'll be right back.

Oh,

Don't cry tonight. Make it home, don't care, home, but they don't care. Make it home, don't care, home, but they make it home, don't care, home, but they don't care. Make it home, don't care. Talking.